1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Ci siamo alle 7:19 minuti. Forza, forza, cari ascoltatori, amici miei debosciati d'Italia, che vi attardate nelle vostre lunghissime colazioni. Dai! Forza, dai! Se siete già in giro a produrre, invece, bravi, bravi. Allora, oggi alle 7:20 ora sfoglieremo i giornali, poi parleremo di che cosa? Parleremo della fecondazione eterologa, delle varie polemiche, lecita o non lecita. Avremo il nostro amico con le sue posizioni molto nette, Mario Adinolfi, molte delle quali non condivido, nel suo libro Voglio la mamma, contro queste idee come la fecondazione eterologa. Si confronterà con l'avvocato Filomena Gallo, che si occupa invece dell'associazione Luca Coscioni e che sta seguendo alcune delle mamme che hanno fatto la fecondazione eterologa, vietata per legge ma garantita da alcune sentenze. E poi parleremo del meteo. Siete pronti alle vacanze? Ci sono degli albergatori pronti a denunciare il meteo, le previsioni meteo. Ne parleremo alle 9. Sono giuste? Sono sbagliate? Sono troppo azzardate in alcuni casi? Gli albergatori di Rimini dice: portiamo i meteorologi in tribunale, perché dicono che piove e poi magari non piove e ci fanno perdere un sacco di soldi. Ne parleremo dalle 9, ora andiamo a sfogliare i giornali. È mercoledì 23 luglio, i titoli, il Sole 24 Ore apre sulla crisi del mondo dell'edilizia. Edilizia ai livelli del 1967, crollano gli investimenti, questo è il titolo di prima pagina. Mentre per il Corriere, sempre il Medio Oriente in primo piano, razzi su Tel Aviv, sospesi i voli. Invece la politica italiana per Repubblica: Renzi, il Parlamento faccia le riforme o andiamo al voto. La Stampa: riforme, la spinta di Napolitano. Il Messaggero: Renzi, riforme subito o si vota. Questo è il titolo di prima pagina. Per Libero: Renzi nella palude, minaccia il voto. Renzi e Boldrini mandano in galera un uomo malato e forse innocente. Questa è l'apertura del giornale sulla vicenda Galan. Mentre invece, ancora un titolo, riforme avanti oltranza, questo per l'Unità. Il Fatto Quotidiano apre invece su questa intercettazione di Emilio Fede, di cui parleremo. Mafia soldi, mafia soldi. Ecco chi è il costituente Berlusconi. Sono le parole di Fede in un'intercettazione peraltro smentita, ma tra poco vedremo. Intanto voglio partire da cosa? Una notizia che riguarda un personaggio molto popolare per molti italiani, Ezio Greggio. Ezio Greggio ha deciso, come raccontano Luigi Ferrarella e Giuseppe Guastella a pagina 16 del Corriere della Sera, di fare una mega sanatoria da 20 milioni di euro con il fisco, che gli contestava una residenza fittizia per lo Stato italiano a Monte Carlo. I consulenti del comico dicono è colpa di una società irlandese, la Wolf Picture Ltd, alla quale Greggio risulta aver ceduto tutti i diritti di sfruttamento economico dell'immagine, poi venduti a Mediaset. Secondo però gli inquirenti, in pratica dietro questa società c'era lo stesso Greggio. Insomma, una vicenda intricata. Sta di fatto che la notizia è questa: 20 milioni di euro per mettersi in regola col fisco è una delle transazioni più alte mai pagate da un singolo contribuente. Questo è l'accordo che Ezio Greggio ha scelto di sottoscrivere con l'Agenzia delle Entrate per sanare un contenzioso incentrato sulle procure di Milano e Monza, sulla realtà o strumentalità della sua residenza ufficiale a Monte Carlo. Accidenti però, 20 milioni di euro per mettere fine a questa questione, anche perché hanno fatto sapere i consulenti del popolare personaggio televisivo rischiava di pagare una cifra ben superiore rispetto ai 20 milioni se lo Stato, se diciamo, i tribunali gli avessero dato torto, se la causa fosse andata avanti, e quindi 20 milioni di euro. Che dire di un altro personaggio ben più tristemente famoso? il comandante, ma guardate proprio nel giorno in cui la Concordia rimessa in piedi, anche se si dovrebbe dire rimessa a galleggiare, affronterà il suo ultimo viaggio verso Genova, e speriamo che vada tutto bene col capo della Protezione Civile che dice tireremo un sospiro di sollievo solo quando saremo a Genova. Ecco, proprio in quel giorno il capitano Schettino, cosa ti va sui giornali? Per cosa? Per una festa privata a Capri, una vergogna totale. E per carità, come ho detto prima, non voglio e non sono un moralista, sono un antimoralista, ma andare a fare una festa e finire sui giornali, non tanto perché non si possa andare a una festa, può fare quello che vuole, ma chi ha invitato il capitano Schettino a una festa? Io vorrei tanto saperlo, giusto per finire sui giornali con qualche foto, perché alla festa privata a Ischia avevamo ospite Schettino. Ma chi se ne frega? Chi se ne frega? E infatti Mario Giordano in prima pagina di Libero critica proprio questo: l'Italia degli Schettino che fa l'inchino a Capitan Naufragio. Ecco, l'inchino, gli fanno pure l'inchino, come se l'inchino non ne avesse già fatti abbastanza lui, e disastrosi peraltro. Gli fanno l'inchino, lo colgono come un VIP, gli corrono incontro, gli sussurrano all'orecchio, lo fanno salire in auto tra mille premure, lo portano a zonzo per l'isola di Ischia, lo esibiscono con soddisfazione. È arrivata la star della settimana, avanti, preparate lo champagne, dobbiamo brindare. Invito assicurato in una maxi villa dove lui, il comandante Schettino, si fa fotografare mentre sorride, si diverte, abbronzato e rilassato. Eppure, scrive Giordano, non è nemmeno Schettino il peggio. Capitan Codardo ormai lo conosciamo, è la nostra vergogna nazionale, l'uomo che scappa mentre la nave affonda, incapace di assumersi la responsabilità, il comandante abituato a scaricare le colpe ai sottoposti. Ma peggio di lui, se possibile, sono quelli che lo invitano, quelli che lo coccolano, lo blandiscono, lo vezzeggiano, lo festeggiano. Peggio di lui sono quelli che vanno ad accoglierlo allo sbarco e gli fanno l'inchino. Che onore, comandante, stasera l'aspettiamo sulla nostra terrazza chic. Peggio del male, in effetti, c'è solo chi cerca di farsi bello con il male. Così Mario Giordano su Libero. Che vergogna quell'Italia che fa l'inchino a Schettino. Questo è il titolo. E tra l'altro l'inviato Stefano Cecchi, invece, sul Quotidiano Nazionale, riesce anche a estrapolare qualche frase a Schettino. Sentite cosa ha detto Schettino. Udite, udite, due punti, aperte, virgolette. Spero solo che la Concordia non affondi proprio adesso, dopo che ho fatto di tutto per salvarla. Di tutto, dice il comandante Schettino. E ancora, non ho mai acceso la TV per vedere le operazioni di salvataggio, perché mai avrei dovuto farlo. Ecco, evviva. Detta questa cosa magari tra un mojito, no? E un cocktail sulla terrazza della villa privata a Ischia. Evviva. Va bene. Prima della pubblicità c'è una polemica molto forte su questa intercettazione che è stata fatta in maniera un po' strana da un personaggio che ha avvicinato Emilio Fede ed è diventato per un qualche tempo il suo personal trainer. Un'intercettazione che dà il motivo al Fatto Quotidiano di aprire. Mafia soldi, mafia soldi, ecco chi è il costituente Berlusconi, e dedicare pagina 2 e 3 su questo. Questo signore che ha intercettato, si chiama Ferri, Gaetano Ferri, personal trainer di Fede, lo allenava, mentre lo allenava però gli faceva delle domande su Dell'Utri, su Berlusconi, su Mangano, su Rubi. Ed eccole allora le dichiarazioni di Fede, che Fede peraltro dice ho smentito, sono state messe in maniera posticcia, però soldi e mafia in pratica da queste intercettazioni, dice Fede. Berlusconi era ricattato, Dell'Utri sa tutto, il problema per Berlusconi è la mafia. Fede risponde sì. A un certo punto hanno iniziato i due, Berlusconi e Dell'Utri, a mettersi insieme per l'edilizia e le cose. Dopo è nata quella che è diventata un'azienda. Berlusconi non c'aveva una lira e Dell'Utri lo ha appoggiato. E poi queste parole, capisci il rapporto mafia, mafia, mafia, soldi, mafia, soldi. Questo è l'audio. Fede fa un'intervista a Repubblica, dice questi audio sono taroccati. Quell'uomo li usava per ricattarmi, intervistato da Corrado Zunino a pagina 9. quell'intercettazione è falsa, quel gaglioffo sapeva fare solo una cosa, tagliare e appiccicare nastri, lo so. Si è presentato un giorno a Rete 4 nel 2012, ero ancora direttore, ha insistito, era con la compagna, una con un cognome che mette paura, non dico chi è perché ci tengo alla pelle, qui il mistero si infittisce per Emilio Fede. Quel Ferri mi disse che aveva bisogno di aiuto, era uscito da un giro di droga. E scusi, lei offre aiuto a uno che è uscito dal carcere senza averlo mai visto? Niente, collega, mi raccontò che aveva una palestra in casa. L'ho portato alla palestra di Porta Venezia, a Milano, poi è fallita. E comunque, qualche volta ha allenato anche me. Ogni tanto gli davo 200-300 euro per le bollette, l'affitto. Ma non è che Ferri serviva, le serviva per registrare, riferire, filmare. Non volete capire che sono io la vittima? Dice Emilio Fede, e al che l'intervista si conclude così: scusi, perché ancora 15 giorni fa lei ha dato 300 euro a questo galeotto se già sapeva che la stava ricattando? Mi scusi, la devo lasciare, il mal di testa è insopportabile. E mette giù, click, Emilio Fede. Certo, davvero un po' un mistero questa intercettazione. Il giornale dice riparte il fango contro Berlusconi. C'è anche il Fatto Quotidiano che dice in questa intercettazione c'è anche questa frase: Fede con le donne, Berlusconi scopava, io gliel'avevo detto, non esagerare, lascia perdere, altrimenti non te le togli più di torno. E poi parla di Ruby, non so, avrà scambiato una 17enne per una maggiorenne. A Ruby poi mancavano 3 mesi a diventare maggiorenne. Torniamo sul piatto forte delle riforme. Mi sa che la 64esima settimana decisiva per la riforma elettorale non porterà a qualcosa di positivo, così come la settimana decisiva numero 64 per l'abolizione delle province. Mi sa che dovremo aspettare, attendere un qualcosa, potrà succedere nella 65esima che inizierà lunedì prossimo. E anche sul Senato per ora nulla di fatto, 2 giorni di dibattiti, non si è votato neanche uno degli 8.000 circa emendamenti, niente. C'è stato l'appello anche ieri di Giorgio Napolitano, l'abbiamo sentito anche nel giornale radio. Non si agitino spettri di svolte autoritarie, ha detto il capo dello Stato. Era come racconta Marzio Breda, pagina 2 del Corriere della Sera: sono sempre stato un attivo assertore di ricercare un'ampia convergenza politica in Parlamento. E poi ancora riguardo all'improvvida frettolosità di cui è stato accusato Renzi, dice Napolitano, si è invece discussa a lungo e serenamente prima che esplodessero le ultime contestazioni fondate sul presupposto che il bicameralismo paritario, anziché essere un'anomalia tutta italiana, fosse un perno del sistema di garanzie costituzionali. Non si dovrebbe dar luogo a pregiudiziali diffidenze e contestazioni rispetto alla ricerca di accordi con forze del campo opposto, e no all'agitare spettri di svolte autoritarie. Insomma, un assist di Napolitano a Matteo Renzi, lo traduco così brutalmente, mentre continuano le opposizioni, gli emendamenti presentati sono appunto 7.850 per la precisione. E allora che succede? Lo avete sentito, il capogruppo del Senato Zanda del Partito Democratico al Senato si è deciso che si lavorerà dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 24, senza sosta. E qui, come racconta Ernesto Menicucci a pagina 3 del Corriere della Sera, si sono levate le voci di proteste, come quella della senatrice Laura Bignami, ex 5 Stelle. Viene leso il diritto dei cattolici di andare a messa lavorando la domenica, quando ci sono delle messe comodissime alle 7 del mattino e poi finite le quali si va a votare al Senato. Oppure altri si spingono oltre, udite udite, io non ci volevo credere: il sabato è il giorno sacro degli ebrei, non si può votare, il venerdì dei musulmani, e vabbè, certo, e viva la laicità dello Stato, aggiungo io, no, lavoriamo il lunedì e il martedì e basta, evidentemente. Comunque, insomma, le uniche, non sono queste le uniche obiezioni o richieste di modifica del calendario. Pare che un perfido Renzi, come racconta Repubblica, abbia detto: Sì, facciano resistenze, tanto io non vado in vacanza, resto qui, vediamo chi vince, no? un Matteo Renzi che dice: a me chi se ne frega delle vacanze, io non ci vado. E quindi tutti i senatori ancorati coi loro sederi agli scranni per votare da lunedì a domenica, dalle 9 alle 24. Che pensate, fa bene Matteo Renzi secondo voi oppure no su questa idea del stare lì a lavorare? Sta di fatto che Renzi, il braccio di ferro, provano a ricattarci, ma oggi hanno perso. Questa è la retroscena di Maria Teresa Meli a pagina 4 del Corriere, e anche Carlo Bertini a pagina 3 della Stampa dice: ora Renzi agita in maniera chiara l'idea delle votazioni. Non cedo ai ricatti, se fanno saltare tutto si vota. Il Premier punta ancora al 2018, ma non esclude le urne in caso di impasse. E allora, se vede troppo ostruzionismo, racconta Bertini sulla Stampa, il tam tam rimbalza dal Senato alla Camera, la parola elezioni comincia già a elettrizzare i renziani della prima ora, pronti alla pugna, pronti alla battaglia. E anche il quotidiano Repubblica, con Goffredo De Marchis a pagina 2 e 3, racconta in un retroscena come Matteo Renzi non sia proprio pronto a darla vinta a quelli che lui chiama i frenatori. Non contano i tempi, ma se non passano le riforme si torna a votare. Così il titolo del retroscena: siamo alla prova finale, vogliono andare al 15 agosto? Ok, tanto io non vado in ferie. Eccola qui la frase che suona come una minaccia a Matteo Renzi, di Matteo Renzi verso tutti i senatori. E poi, insomma, l'idea di guardare anche con attenzione, già due giorni che Repubblica lo dice, alle mosse di Pietro Grasso, presidente del Senato, punta a tempi veloci compatibilmente col regolamento, ma più che la minaccia di un conclave chiuso a chiave anche a Ferragosto, diventa ogni giorno più concreta e plausibile l'altra minaccia, quella del voto anticipato, usato finora come ballon d'essai, come strumento per ammansire parlamentari e frenatori fuori e dentro il PD, si sta trasformando in una prospettiva che ritorna nelle discussioni tra i fedelissimi renziani. Il voto anticipato. Cari italiani, preparatevi, perché forse in primavera, se non si sbloccano le riforme, c'è il voto. Anche perché il ministro dell'economia Padoan ieri a Bruxelles, così en passant, ha detto, ed è il titolo della Stampa pagina 7, per le riforme serve tempo. Eccolo lì, serve tempo, ci vuole tempo. Anche per il Messaggero, l'ira di Renzi, nuovo Senato o alle urne. Ieri invece la Camera ha avuto una grande polemica per l'arresto di Galan. È stato votato Galan, che è uscito dall'ospedale, si vede in queste immagini nel Mattino di Padova, ingessato con la gamba e in carrozzina, ha detto: sono incazzato, ma tanto tanto, e sapete bene con chi. Ora, con chi ce l'ha Galan? Mi hanno tradito, dice, probabilmente con i colleghi, con i parlamentari, magari con qualche collega di partito. L'arresto di Galan, la Camera dice sì, Forza Italia in rivolta. C'è Fabio Tonacci che scrive su Repubblica le reazioni, anche se Berlusconi dice: sono addolorato per lui. C'è stato il voto segreto, ma anche il voto segreto non ha salvato Galan dall'arresto. E tra l'altro Galan, si racconta, è anche molto arrabbiato nei confronti dei medici, perché proprio nella mattina e nel giorno in cui si votava la sua richiesta d'arresto, ieri è stato dimesso dai medici. I medici che gli hanno detto, come racconta Francesco Alberti sul Corriere della Sera, a pagina 7, dottor Galan, per noi il ricovero in ospedale non è più necessario, può proseguire le cure a casa. E lui, raccontano, dice: ma proprio i medici, tutti mi tengono alla larga, manco fossi un appestato. E sono rimasto imbufalito e incredulo su queste dimissioni proprio poche ore prima che si votasse l'arresto. Comunque Galan si ritrova in questo momento nel carcere di Opera, quindi a Milano, alle porte di Milano, dove c'è anche l'infermeria per le cure, anche se i legali hanno chiesto subito che ci siano per lui gli arresti domiciliari, perché ha bisogno di essere curato. Oh, come cambiano i tempi, caro Mauro Meazza. Mauro, buongiorno. Buongiorno. Tu buongiorno, ti ricordi? No? Ti ricordi quando non si votava l'arresto per nessuno? Praticamente era impossibile, no? Sì, ma come dire, cambiano i tempi, cambiano i climi, però non capisco perché tu invece continui a presentarmi dopo notizie di arresti. traduzioni in carcere. Ma è così, è una questione di scaletta, di tempi. Sì, però io perché in scaletta devo venire sempre dopo qualcuno che è stato arrestato? Per, come dire, per ridare un segnale di speranza. Dopo gli arresti, ecco l'Italia che risorge. Mauro Meazza. Ah, ecco, beh, ti ringrazio, fin troppo. Adesso stai esagerando, forse un altro verso. Comunque, su Twitter ti ho messo anche la vignetta di Domenico Rosa oggi sul Sole 24 Ore, proprio sull'arresto di Galan. Se vuoi mostrarla adesso, eccola, intanto qua, che ne parliamo, ecco, così potete apprezzarla. La possono vedere anche tutti i nostri ascoltatori. Sempre su Twitter, perché so che tu la mattina sei attivo da prestissimo su questo social network. Sei molto cross mediale, come mi hai detto l'altro giorno. Il termine mi ha colpito. Mi stava venendo un vaffa, così mi stava. Ma perché? No, è cross mediale, si può dire, mica ti ho detto che ti devono arrestare, scusa. No, perché sempre su Twitter ti volevo segnalare. Oggi su Sole 24 Ore spieghiamo che c'è un tavolo tecnico per l'obbligo di POS, come sai, a professionisti, esercenti, commercianti, eccetera, eccetera. Tavolo tecnico che deve servire a ridurre questo problema dei costi che altrimenti gravano, diciamo, solo su questi operatori. Però se ne parlerà, diciamo, abbiamo un orizzonte entro l'estate, quindi c'è tempo. L'estate è già iniziata, peraltro. Però, l'estate è già iniziata, sì. No, entro l'estate vediamo i risultati di questo tavolo tecnico. Risultati invece molto buoni per Radio 24, nonostante le nostre incursioni della mattina, sì. Vedo che Radio 24 sfiora i 2 milioni di ascoltatori nel primo semestre del 2014, quindi non siamo riusciti nell'abbattere. Non siamo riusciti nell'intento, però adesso vediamo, ci sono le tue vacanze che sono confermate, quindi sì, non è che ti fermi allo stato, sì. Per la 65esima, 66esima no, settimana decisiva, no, la seguo dalle vacanze, dai. Hai la previsione di rientro, mi pare addirittura la 70esima settimana decisiva, perché insomma, se il conteggio va avanti così, dico bene, no? Adesso può essere, adesso non lo so. Il primo settembre, ecco, poi fate voi il calcolo. Addirittura, vabbè, non so, adesso di queste cose qui parleremo poi con l'ufficio personale, ottimo, naturalmente. Ottimo. Volevo anche segnalarti, a proposito di numeri invece, vabbè, quelli dell'edilizia, diciamo, verrebbe anche da non commentarli, con numeri con cui apriamo oggi Sole 24 Ore, e il ritorno, si fa per dire ritorno, insomma, il crollo ai livelli del 67 come investimenti, e questo, vabbè, c'è un'ampia trattazione oggi nelle nostre pagine 2 e 3, proprio anche come idee per rilanciare il settore. C'è anche un dato brutto, sempre a proposito di numeri, sulle sofferenze bancarie che sono arrivate a 168 miliardi. Ora i due numeri si collegano facilmente, nel senso che appunto gli investimenti, essendoci molti crediti deteriorati, trovano anche meno credito. E questo è un po' così, tanto per darti qualche spunto. Invece spunto più leggero, ci sarà una cittadella della Juve. Lo so, questa l'ho letta e sono passato oltre. L'hai letta perché non vogliamo occuparcene di questo aspetto. Magari dopo le vacanze. Dopo le vacanze. Era una battuta. No, ma figurati, anche io, come dire, soffro un po' a vedere così protagoniste altre squadre, però mi tocca per dovere di cronaca segnalartelo. Benissimo. Hai visto invece il nuovo codice della strada? Leggi Maurizio Caprino sul codice della strada, proprio anche come consiglio per la tua vita, voglio dire. Guarda, ora che ieri Alessandro. Maurizio era anche ospite alle 9.05, parlavamo di multe, ma lo leggerò. È quello che dice che arrivano i 125 anche in autostrada? Tra l'altro, sì. Le moto, però le biciclette. Si spiega anche delle biciclette avranno tutto un trattamento in città, vabbè. Leggi Maurizio Caprino, non è che si può riassumere Caprino adesso. però ti voglio dire che tra le tante cose Maurizio ci dice anche i tempi dell'attuazione, perché adesso bisogna andare nelle altre commissioni, poi in aula, poi all'altra camera, e quindi insomma io credo che questo codice della strada nuovo potrebbe debuttare citare, 2016, la butto lì, ecco, adesso conto male, ma potremmo, non mi farei illusioni su un'accelerazione, tanto per restare in questioni appunto automobilistiche. Va bene, ma tutto questo serviva poi, scusami, ti devo segnalare, guarda che c'è un po' di problemi tra l'Italia e Poste, ma ne spieghiamo oggi nelle pagine di Finanza, lo dice Gianni Dragoni. Ti rimando alla lettura puntuale del collega. Il nuovo centrodestra si spacca sul dialogo con Forza Italia, come racconta il Corriere della Sera. Interessante per esempio l'intervista a Cicchitto, per chi segue queste cose, questi movimenti, all'Unità. Cicchitto dice: se dovessi tornare con Berlusconi mi dovrei sputare in faccia. Mentre è qualche problemuccio per Daniela Santanchè, come racconta Repubblica, pagina 8. Santanchè, imprenditrice rosso più profondo. Ettore Livini racconta: puntava sul rosso dell'Unità e invece, almeno per ora, deve accontentarsi del rosso della sua società, la Visibilia, che ha chiuso i conti con ricavi quasi dimezzati a 13,8 milioni e un passivo di 536 mila euro, quasi 20 volte più dei 32 mila euro dell'anno precedente. A salvare la pitonessa e la sua società è arrivato il provvidenziale salvagente lanciato dalla Bioera, società quotata in borsa e controllata dal suo ex compagno Canio Mazzaro, che ha speso 900.000 euro per rilevare il 40% della concessionaria di Daniela Santanchè, passionaria del centrodestra. Dunque conti in rosso per Daniela Santanchè come imprenditrice. Conti invece in non in rosso per quello che succede alla regione Lombardia, dove racconta il Messaggero con Claudia Guasco a pagina 15. E tenete ben strette le mani sul volante, perché vi sto per leggere questa notizia. Minetti e il Trota, la regione ci ridia i soldi. Sapete che i consiglieri regionali mettono da parte dei soldi, dello stipendio per la futura pensione, il futuro vitalizio, ma prerogativa dei consiglieri regionali, in attesa di attendere la pensione, in attesa di prendere la pensione e nella sicurezza di non prenderla, hanno detto molti ex consiglieri: vabbè, ridateci indietro i soldi che avevamo accantonato per il futuro vitalizio. Chi lo ha fatto? Romano La Russa, fratello di Ignazio, a lui sono stati restituiti 41.000 euro. Nicole Minetti rientra in possesso di 79.600 euro. Renzo Bossi, il Trota, 55.500 euro restituiti a lui. Domenico Zambetti, ex assessore PDL, a lui 73.390 euro, ma poi cifre anche maggiori ad altri, sono, per carità, fa sapere il Messaggero, soldi di cui rientrano legittimamente in possesso, cioè invece di tenerli accantonati per il futuro vitalizio ha detto: visto che tanto c'è una riforma, il vitalizio non lo prenderemo mai, ridateci indietro i soldi. Però vabbè, Minetti e il Trota, la regione ci ridia i soldi, evviva. Mentre Avvenire apre sull'ennesima tragedia di migranti, il titolo di prima pagina di Avvenire è questo: uccisi e buttati a mare, ma si può impedirlo. Sarebbero 150 le vittime nel massacro avvenuto a bordo di una nave arrivata a Messina. E è interessante l'intervista che Laura Boldrini, presidente della Camera, rilascia ad Avvenire a Giovanni Grasso. È più un'intervista, quasi, se volete, in cui rispunta l'ex ruolo di Laura Boldrini, cioè il portavoce dell'Alto Commissariato per i Rifugiati all'ONU. Boldrini, nuove misure contro le stragi. Racconta: si potrebbe, con un progetto attivo subito, vagliare le domande di asilo nei paesi di transito, Egitto, Giordania, Libano, trasferendo coloro che hanno bisogno di protezione verso altri paesi. Ma poi rilancia anche questa idea, che farà discutere, c'è il discorso del pattugliamento e del salvataggio in mare. Accanto a Mare Nostrum ci vorrebbero iniziative analoghe europee. L'agenzia europea Frontex, nata per il controllo delle frontiere esterne, includa nel suo mandato il salvataggio. E sarebbe anche un'ottima idea quella di creare una figura unica di coordinamento a livello dell'Unione Europea per le azioni di salvataggio in mare. E a chi dice come avvenire, ma così invogliamo i profughi a venire in Europa, dicono molti. Questa è una visione, sono discorsi miopi, demagogici e privi di senso. Siamo di fronte a un fenomeno drammatico, enorme, che coinvolge intere aree del pianeta. Così Laura Boldrini ad Avvenire. Accanto a questa intervista fa un pochino, come dire, specie, stona, diciamo così, per usare un eufemismo, quello che racconta Libero in prima pagina di oggi. Se lo trovo, magari, se non lo trovo, me lo invento. Eccolo qua, Libero, Giuliano Zulin, incredibile al centro di accoglienza di Pozzallo, a Ragusa. I clandestini buttano via la pasta. E c'è un onorevole del Movimento 5 Stelle che dice: il menù è da cambiare. Già Giuliano Zulin racconta, con tanto di foto che documentano, la pasta già cotta e buttata via perché i signori che arrivano sulle coste italiane hanno gusti alimentari diversi dai nostri, rifiutano spaghetti e maccheroni che vanno a riempire sacchi neri della spazzatura, scrive Libero. E tra l'altro si racconta della 34enne deputata della provincia di Ragusa, Maria Lucia Lorefice, del Movimento 5 Stelle, che dice: bisognerebbe cambiare i menù. Abbiamo avanzato perplessità e richieste di migliorare certi servizi, tra cui adeguare la tabella alimentare alle esigenze dei migranti derivanti non solo dalle differenti culture, ma anche da caratteristiche fisiologiche, come ad esempio la difficoltà per le popolazioni subsahariane di digerire gli amidi del frumento. E così vorremmo sostituire la pasta con il riso. Questo è il titolo di Libero, Grand Hotel Italia, i profughi buttano via la pasta e la grillina fa il menù 5 Stelle. Vabbè, andiamo sulla cronaca, qualcosa di cronaca. Beh, la cronaca estera porta sempre Medio Oriente in primo piano, perché il titolo di Repubblica: Hamas spara sull'aeroporto, stop ai voli su Tel Aviv. Israele dice: l'aeroporto Ben Gurion è sicuro, ma sono sempre più le compagnie aeree, tra queste anche Alitalia, che per il momento ha sospeso i voli su Israele e sull'aeroporto di Tel Aviv. Alitalia ha deciso di cancellare i voli di ieri sera, posticipare quello previsto stamattina, mentre tutte le compagnie aeree americane hanno sospeso i voli verso il Ben Gurion, seguiti da Air France, KLM e Lufthansa. Certo, una situazione magari provvisoria, speriamo provvisoria, ma molto molto seria. Mentre che dire anche di questa vicenda che riguarda le pensioni? Sul Giornale e su Libero c'è questa notizia che certo non farà molto piacere ai pensionati. Al governo servono 3 miliardi, li pagheranno i pensionati. Questo almeno titola Libero con Antonio Castro, cioè rispunta l'ipotesi di un prelievo sulle pensioni oltre i 3.000 euro netti al mese. Avete questo tipo di pensione? Secondo Libero dovete tremare per un possibile prelievo. Mentre il Giornale mette in rilievo questa notizia al fianco delle notizie delle pensioni dei deputati. Vogliono tagliare le pensioni ma salvano quelle dei deputati. È una di quelle classiche notizie, anche questa, che farà molto molto addolcire questo mercoledì 23 luglio. Vabbè, che dire poi, come commentare questa notizia pubblicata da Marco Dozio sul Quotidiano Nazionale, sul Giorno, e che proviene da Vimercate in provincia di Monza e Brianza: il passo falso della finta cieca. Va dai carabinieri e mette la firma. Una donna, 58 anni, origini napoletane, residente a Vimercate, incensurata, sposata, senza figli, da 6 anni percepiva un'indennità mensile di 1.400 euro perché cieca, si è presentata dai carabinieri a fare una denuncia e ha fatto la firma. A che gli hanno detto: signora cieca, lei oltre a non essere cieca è pure anche un po' idiota e anche truffatrice, e ora pare che debba restituire 100.000 euro per questa vicenda. Va bene, siamo al momento conclusivo, al momento della carta costa, oggi non mezza, non una, non tre quarti, ma due pagine su tutti i trucchi della felicità sul giornale. Come liberarsi dal pessimismo e vivere contenti con un nuovo test. Che misura? Sentite una delle domande del test. Sentitela, vi prego. Qual è il tuo piatto forte per una cenetta romantica? Una fonduta di cioccolato? Un couscous? O un piatto unico ed equilibrato? Rispondete a una di queste tante serie domande e scoprirete se sarete felici.